una tabella finale, ho contestato la resistenza. Sì, a Gengai. Che è così. E come c'è poi la fate microfono a te? Allora, uno, l'originale è 82, e bisogna metterlo uno da 3,30. 82 microfarad. Allora, quello che monta l'originale è 82 microfarad, e l'altro, il condensatore, sì, il condensatore da 3,30 vuole. È normale, normale, sì. Il condensatore finale invece, perché quelli sono i finali più potenti, quelli che stai dicendo tu, capito? Cosa succede, Daniel? Succede che se tu li metti quel finale dai 10 watt, e noi cambi il condensatore di impedenza, quell'impedenza lì serve per fare bruciare il finale che tu stai aumentando, cioè per non mandargli più tensione a quel finale lì. Beh, è così. È così. Come se dovrei truccare altre di cose. Come si dice? Queste modifiche. Se valerà. Mi scappa, ricorda di portarmeli. Poi dici, siccome io non posso uscire, ti informi da Vittorio, la posare, da Vittorio vai a nome mio. E ci va andato Gianfranco. Gianfranco sai, lui già lo sa. E di chi cosa costano quei finali a Vittorio? Chiara, sei occhiera. Quando cosa costano, mi fa lo squillo, mi ci fa. Quel finale costa a tozzo. Però quando prendi quei finali devi prendere il condensatore anche. Eia, eia. Beh, se sei fatta completa. Se tu qua, te lo faccio sostituire. Ma c'è tutto completo, io c'ho... L'ho visto l'uomo salvatore che c'ho adesso. Eia. Il salvatore è quello regolato, tutto qua, la temperatura sua, per non bruciare il circuito stampato, tutto qua. Il salvatore va giù tutto. Il salvatore con la punta ad ago, e non fai né cagate né niente quando salti. Ciao a Luca, gli avventori ascoltori di Sono Squadra Frequenza sui 27405. Saluto tutti cordialmente, per me quel RT e ci ascolta alle prossime. Ciao ancora, buonanotte a tutti. Ehi, Andrà, dai. Ciao, ascolta domani se coincide, dai. Buonanotte, buon proseguo di giornata, di serata. Andrà, ciao Luca, dai. Buonanotte e buon tutto anche a te, dai. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Marco e ciao Daniele, buonanotte e a domani, ciao. Ciao, ciao Lugaria, ciao ciao. E va. Andiamo, dai Lugaria, vai in prossimina, ciao ciao, non ti azzuffare con il computer e con le cuffie. Ah, non azzuffarti con le cuffie e col computer. No, ma non ci sta Daniele, voglio che lo azzuffare. Andiamo, va, meglio così. Oh, alla prossima, ciao. Ciao, ciao, buonanotte, credo che sono in dispedito, ciao.